alta voce. Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Prima puntata. Così in treno non ci si arriva lassù. No. E neanche in corriera. Qui ci vogliono 3 ore di mulo. E poi non d'inverno, si intende. E neanche quando le nevi si sciolgono, allora non ce la fareste nemmeno con 5. Beh, e suppongo che avrà pure un nome. Sì, mi pare di sì. Deve essere l'unica cosa che abbia. All'improvviso, dal sentiero dei pascoli, ma ancora molto lontano, arrivò l'abbaiare di un cane. Tutti alzammo la testa. E poi di 2 o di 3 cani. E poi il rumore dei campanacci di bronzo. Chini attorno al saccone di foglie, al lume della candela, c'eravamo io, 2 o 3 donne di casa e più in là qualche vecchia del borgo. Mai assistito a una lezione di anatomia? Bene, la stessa cosa per noi in certo senso. Dentro il cerchio rossastro del moccolo, tutto quel che si poteva vedere erano le nostre 6 facce, attaccate una all'altra come davanti a un presepio. E quel saccone di foglie nel mezzo. E un pezzo di muro annerito dal fumo e una trave annerita anche più. Tutto il resto era buio. Sentito niente voi donne? Dissi io, alzandomi subito in piedi. La più vecchia prese il moccolo in mano e lentamente andò ad aprire la finestra. Per un minuto fumo tutti nel buio. L'aria intorno era viola, e viola i sentieri e le erbe dei pascoli e i calanchi e le creste dei monti. E in mezzo all'ombra, lontano, vedemmo scendere al borgo 4 o 5 lanterne. «Sono gli uomini che scendono dai pascoli», mormorò, ritornando da noi, «e fra 10 minuti sono qui». Era vero, e così respirai. Le parole mi fanno vergogna, ecco il fatto. E i commiati non sono mai stati per me, specie quelli. Senza parere mi avviai verso l'uscio. Allora, così, reverendo, mi disse una venendomi dietro, noi lo laviamo e gli facciamo la barba, e a vestirlo ci penseranno loro stanotte. A cucire il lenzuolo manderò domattina la Melide, dissi. E per le donne che piangono? Volevano 350, più mangiare e dormire una notte. Facciamo senza, così. Tanto più che c'è il caso che arrivino anche i nostri parenti da Braino. Sì, forse non ne vale la pena, dissi io. Gente non dovrebbe mancare domani. Lavorava anche nei Maggi, o mi sbaglio? Sì, Giacobbe. E una volta Re Carlo di Francia. E poi, dopo 50 anni di pastura su a Bobbio, si finisce che ci conoscono tutti. Vicino al saccone di foglie se ne stava seduta la vedova. Difficilmente si piange quassù. E anche lei rimaneva immobile e fissa come la vecchia del Duomo in città che sta lì ad aspettare il suo soldo. I nipoti erano stati portati in stalla. Buonanotte, dissi io a bassa voce. Domattina alle 7 sono qui. Fece segno di sì con la testa. 2 o 3 donne mi accompagnarono giù. Adesso cani e campanacci di bronzo si sentivano anche più chiaramente, misti a tratti a un rumore di peste. Dietro un vetro un bambino tossiva. E nelle stalle si sentivano calci di mulo e rumori di morsi di ferro. Cominciava a far freddo. Attraversai la piazzetta di pietre e due strade non più larghe di un braccio. Così strette, vi dico, che un Falstaff come me deve strisciarci coi gomiti contro. Dallo stagno mi voltai per guardare giù in basso. Sette case addossate e nient'altro. Più due strade di sassi, un cortile che chiamano piazza, e uno stagno, e un canale, e montagne fin quanto ne vuoi. Le tre vecchie erano ancora là, ferme, proprio sullo scalino di casa, sotto la finestra illuminata ed aperta. «Ecco tutta Montelice», dissi. «Tutta quanta, e nessuno lo sa». E salì per la strada di monte. Io alzai appena appena le spalle. Non dirò che fosse una sciocca domanda, come al momento poté anche sembrarmi. Il fatto è che sciocca sarebbe stata qualsiasi risposta. Il giovanotto mi guardava aspettando. Sì, avrà avuto 20 anni, e poi forse neanche. 18. 18 a ogni modo è l'età che si meritava. E fatta eccezione della sua tonaca nera, impossibile imbattersi al mondo in qualcosa più nuovo di lui. «Cosa fanno qui a Montelice?» dissi. «Beh, vivono. Ecco, vivono e basta, mi pare». L'amico non dovette sentirsi granché soddisfatto. Mi aveva sorpreso lì, sulla mia seggiola, senza nemmeno le scarpe, con una corporatura e una faccia da Falstaff. E anche un po' addormentato, per giunta. E adesso, ecco, anche quella risposta. Per fortuna era ancora piuttosto educato e in certo senso perfino distinto. «Una cosa nuova nuova», v'ho detto, «appena uscita dal conio». «Ah, capisco», ebbe la presenza di dire, come se si fosse trattato in realtà di un'informazione confidenziale e precisa. «Vi capisco benissimo. Vivono». Era il nuovo curato di Braino. Appena appena arrivato, s'era presa la briga di salir fin da me a consigliarsi e a far conoscenza con me, si capisce. Mi aveva subito chiesto un bel mucchio di cose: ballo, comunisti, moralità e via dicendo, e tutto sommato non mostrava voglia di andarsene via tanto presto. Ma ogni cosa col massimo garbo e sempre di striscio, così, senza nemmeno parere. Starlo a sentire era un po' un divertimento per me. Beh, anche una cosa triste, però, un poco triste. «Voi guardate il vestito di quell'ometto laggiù, impiegato al comune o anche vedovo, e la prima cosa che viene da pensare è che un giorno è stato nuovo anche lui. E anche l'ometto, si intende». «E poi muoiono», aggiunsi. «Coi miei 60 anni passati e quelle scarpe slacciate lì per terra, non c'era per niente pericolo che potessi passare per cinico». «Sì, qui non succede niente di niente, e neppure a Braino, vedrete, e neppure in tutta quanta la zona fino quasi alla valle. I uomini sono ai pascoli adesso e non tornano prima di notte. Qualcun altro sta verso le torbe e le donne a far legna qua e là. Se vi affacciate un momento in strada, tutt'al più riuscirete a trovare una vecchia a soffiare sul fornello. Sempre che abbiate fortuna. O una capra. Magari anche solo una capra. In certo senso le padrone del paese sono loro. Stanno affacciate perfino sugli usci a godersi il passeggio, se c'è. E fra 2 settimane non troverete più neanche quelle. L'inverno viene presto da noi e dura quasi mezz'anno. Non mi doveva credere molto e benevolmente anche un po' disprezzarmi. Alludevo alla gente, agli uomini, precisò lui civilmente. Ah, la gente, la stessa cosa anche lì. La vecchia storia del medico condotto anche lì. Il ragazzo arriva su fresco fresco con il suo 110 e la lode e si immagina di fare chissà. Gli piace anche di fare un po' il martire. A certa gente, per un po' si capisce, il martirio non spiace per niente. Su un momento gira tutta la montagna col mulo, entra in tutte le stalle e via ancora. E oltre a tutto, per tenersi informato, s'abbona anche a 3 o 4 riviste. Votai il mio bicchierino di grappa. E anche lui sfiorò il suo con le labbra, ma appena appena, così, come farebbe uno scoiattolo giovane. Poi s'accorge che non ci sono che casi d'artrite, sciatiche e artriti e nient'altro. Allora non gli resta che prescrivere iodio e ingrassare. Mi rispose semplicemente guardandomi. Sì, come me, esattamente. Per carità, mi sorrise. Non volevo dir questo. Beh, posso anche capirvi, dissi io. Un po' troppo paternamente ho paura. Ma il ragazzo non era tipo da accettare regali del genere. Si alzò sorridendo. Certo, bisognerà darsi d'attorno, concluse, ignorandomi con urbanità. Bisogna cercare mezzi nuovi. Ogni tempo richiede il suo mezzo. Trovate? Aveva ragione, d'accordo. E io avrei potuto tranquillamente dirgli di sì. Il fatto è che lui aveva troppa ragione e questo per me è su per giù come aver torto e anche peggio. E poi c'erano tante altre cose. Gli risposi in tutt'altra maniera. Una cosa, dissi io. Siete mai stato in un paese di monte, su per giù come questo, diciamo, per un mese continuo di pioggia? Mi guardò un po' stupito. Non più di tanto, a ogni modo. E mi pare anche un po' divertito. E magari 2 mesi di neve? Neve, mi spiego. Certamente non come in città o come a valle. Aspettò dove andavo a finire. Io invece sì, ci sono stato. E per più di 30 anni. Più di 30 Natali, sapete? Davvero aveva dei numeri l'uomo. Riuscì a guardarmi con la più deferente diffidenza del mondo. Adesso dovevo sembrargli un curioso esemplare di tipica fauna locale, neanche troppo antipatico in fondo. L'ultimo dei 1000, o la vecchia domestica sorda che ha servito 100 anni in città dalla stessa famiglia. E che cosa succede? Mi chiese, unicamente per educazione. Niente, ho detto. Non succede niente di niente. Cercai di rifarmi. Solo che nevica e piove. Nevica e piove e niente altro. E finalmente trovai anche il coraggio di infilarmi di nuovo le scarpe. L'amico ebbe la delicatezza di voltarsi a guardare il cappello. E la gente, conclusi, se ne sta giù nelle stalle a guardare la pioggia e la neve, come i muli e le capre. Così. Dalla porta ci fermammo un momento. Qualche cosa doveva pur dirmi. Una capra mise dentro la testa. Ci considerò un po' delusa e se ne andò via come uno di casa. Sarebbe tornata più tardi. Vedete, dissi io ancora una volta, seguendo con gli occhi la capra, niente di niente. Ecco qui. Beh, qualche volta possono succedere anche incontri del genere, come quello con lei di quest'oggi, sgusciò lui sorridendo. È già qualcosa quassù. Mille grazie. Scese giù dalla parte di Braina. A sinistra voltò. Era svelto e slanciato e tutto vestito di nuovo. Sì, 18 anni. Evidente. La più giovane cosa del mondo. O anche la più vecchia. Chissà. Fu una sera, sul finire d'ottobre. Me ne venivo giù dalle torbe di monte, né contento né triste, così, senza nemmeno un pensiero. Era tardi, era freddo, ero ancora per strada, dovevo scendere a casa, ecco tutto. L'ombra proprio non era ancora scesa. Campanacci di pecore e capre si sentivano a tratti qua e là un po' prima della prata dei pascoli. Proprio l'ora, capite, che la tristezza di vivere sembra venir su assieme al buio e non sapete a chi darne la colpa. Brutto ora. Uno scoiattolo attraversò di corsa la strada, sgusciandomi quasi fra i piedi. Solo allora, giù, in fondo al canale che scorreva un 20 metri di sotto, china a lavar biancheria o stracci vecchi o budella o qualcosa di simile, vidi una donna, un po' più vecchia di me, sulla sessantina, sapete, in mezzo a tutto quel silenzio e a quel freddo e a quel livido e a quell'immobilità un poco tragica, l'unica cosa viva era lei. Si chinava e mi pare anche a fatica. Affondava gli stracci nell'acqua, li torceva e sbatteva su un sasso. Poi li affondava, torceva e sbatteva e via ancora così, né lentamente né in fretta e senza mai alzare la testa. Mi fermai sopra il ciglio a guardarla. Un sasso scivolò giù fino in acqua, ma la vecchia nemmeno s'accorse. Solo una volta si interruppe un momento. Si mise una mano sul fianco, diede un'occhiata alla sua carriola sull'argine e alla capra che frugava tra l'erba. E poi ancora riprese. Beh, dissi allora con me, quando ci si mette sul serio, il mondo sa bene essere triste, però. Ha perfino l'intelligenza per questo, e neanche un uomo ci arriverebbe, mai e mai. Era tardi, davvero era tardi. Si vedevano qua e là due o tre stelle. Continuai la mia strada. Ma la sera dopo lo stesso. E così l'altra sera e poi l'altra. Alla medesima ora, eccola là, ancora in fondo al canale. Niente sole, niente luna, non un'anima viva all'intorno. Quegli stessi campanacci di bronzo, un po' prima della prata dei pascoli, e la stessa immobilità dappertutto. Padronissimi di riderci sopra, ma anche i sassi a quell'ora erano tristi e l'erba, ormai di un color quasi viola, era ancora più triste. E lei, sempre laggiù, china sopra i lastroni di pietra. Affondava nell'acqua gli stracci, li torceva, sbatteva e via ancora. E senza fretta o lentezza. Così. E senza mai alzare la testa. Una cosa facile a dirsi, ma dovevate vederla. No, dissi fissandola bene. Non credo di conoscerla, quella. La vecchia non è certo di qui. Senza dubbio è un uccello sbrancato. Sempre meglio, a ogni modo, che sia lei a venire da me. Prima o poi vengono tutte da me. E che cosa potrei dirle, oltretutto? Perché ormai io ero un prete da sagre. Ero un prete da sagre e nient'altro. Su questo non c'era più dubbio. Per un matrimonio alla buona e dottrina ai ragazzi e metter d'accordo anche 7 caprai per un fazzoletto di pascolo, non ero poi peggio di un altro. E così se un marito cominciava a usare un po' troppo la cinghia. Ecco solo il mio pane, oramai. Altra roba non era per me. Bene, per 5 sere io la vidi là in basso. Siamo ben buffi, però. A neanche 2 passi dall'argine mi auguravo di non trovarcela più. Ma una sera che lei cambiò posto e sul momento non riuscivo a vederla, fui lì per gridarle qualcosa. Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.